Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Spot e grandi registi, pubblicità o corti d'autore. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Manifesto o celato dai pudori della settima arte, il rapporto tra firme del cinema e pubblicità è da sempre molto stretto. Per il primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, Marta Cagnola ci guiderà in un viaggio attraverso gli spot d'autore. Il prossimo 10 dicembre siete pronti ad offrire o a farvi offrire un caffè? Potrete farlo in uno dei bar che aderiscono alla Giornata Nazionale del Caffè Sospeso. Sentiremo tra poco di cosa si tratta. Focus sui trend dedicato infine ai consumi aumentati, quando gli effetti speciali fanno tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Situato di fronte all'oceano di Casablanca, a soli 600 metri dal mare, il 5 dicembre apre il Morocco Mall, terzo centro commerciale più grande del mondo, primo nel Nord Africa e Medio Oriente. Costato 200 milioni di euro, il centro prevede oltre 14 milioni di visitatori all'anno e porta per la prima volta nell'area le Galeries Lafayette. Prosegue la collaborazione fra Versace e H&M. Una nuova collezione per la primavera-estate sarà in vendita, questa volta solo online, sul sito del colosso svedese, a gennaio. Disponibile solo nei paesi dove è attivo il servizio di e-commerce, come Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Norvegia. Non in Italia. Dal campo di cotone all'arrivo al consumatore finale, una t-shirt da sola consuma 2700 litri di acqua. È il caso simbolo del rapporto sui processi produttivi realizzato dall'associazione ambientalista Amici della Terra. Ma la t-shirt non è l'unico caso. Per produrre una tazza di caffè sono necessari 140 litri, per un chilo di carne di manzo addirittura 16.000. L'Italia rientra nella top 10 del Country Brand Index, lo studio dell'agenzia Future Brand che classifica 113 paesi secondo criteri legati alla forza della marca. L'edizione 2011 conferma il primato del Canada, seguito da Svizzera e Nuova Zelanda. Per la prima volta esce dai primi 10 il Regno Unito, solo 13esimo, mentre gli Stati Uniti, al sesto posto, perdono altre due posizioni, decima l'Italia. Sarà presto online il negozio virtuale dell'Anica, l'associazione dell'industria cinematografica. Sul sito, al pari di iTunes, sarà possibile comprare la visione in streaming o il download di migliaia di film italiani, da quelli d'archivio fino alle ultime stagioni. La borsa della spesa. Un seducente giovane uomo dai capelli bruni si aggira per una festa, anzi tra i saloni di un castello poco prima che la festa abbia inizio. Intanto mesce l'aperitivo agli amici in attesa che arrivino tutti gli invitati. Anche noi spettatori siamo attesi. Il giovane uomo ci apre le porte del castello alla fine dello spot. È la storia dell'ultimo spot Campari, l'ultimo degli spot nel nostro paese firmati da grandi registi. Questa volta a farsi tentare da una pubblicità d'autore è stato Joel Schumacher. I have not done a lot of commercials. You know, a lot of Campari commercials. Non ho fatto molte pubblicità. Molti spot Campari mostravano gente quasi di un altro pianeta, così belli e così eleganti, ma sembravano staccati da noi. And we wanted very much to bring you into the party. Invece noi volevamo davvero portare le persone dentro il party e non creare qualcosa di aspirazionale del quale nessuno avrebbe potuto davvero entrare a far parte, come una copertina di Vogue o qualcosa del genere, intendo dire. That is a great quotation from a German, you know, philosopher. So quella dell'attesa è una bellissima citazione del filosofo tedesco Lessing, ci siamo basati su questa sua idea. Io penso che dobbiamo vivere con la speranza questi tempi difficili, dobbiamo vivere con l'attesa di grandi cose, con grandi ispirazioni, tanto amore e tutte le cose belle della vita. And all the great things in life, but I think we have to live with

lanciato un pop-up store virtuale animato che compare sugli smartphone e tablet di chi si trovava in quel momento in Trafalgar Square. Inquadrata la piazza, compaiono abiti e accessori che si possono scegliere, provare, vedendo come ci stanno e anche comprare, in questo caso con lo sconto del 20% rispetto al negozio. Il tutto outdoor, sullo sfondo londinese. Secondo Simon Forster, direttore di Debenhams, questo è il futuro della shopping experience. Sono moltissime le soluzioni di realtà aumentata applicate specificamente al retail, per esempio all'in-store advertising e alle promozioni nei punti vendita. A Mosca, per esempio, è stata installata una postazione di realtà aumentata nei negozi di Topshop per provare i vestiti della nuova collezione Dress Up. Sappiamo nei camerini quanto possa diventare un'esperienza faticosa ed estenuante provare un numero alto di abiti, e questo vale per Topshop ma in genere per tutte le catene di low cost. Così uno specchio con telecamera riprende il cliente, la cliente che sceglie i capi da indossare, se li vede addosso, fronte e retro, senza doversi cambiare. Fra i primi a parlare di realtà aumentata, lo citavamo poco fa, lo scrittore Bruce Sterling, uno dei padri del cyberpunk, il filone che proietta nel futuro le scienze avanzate. Sterling per i prossimi anni teorizza un ruolo da protagonista per la realtà aumentata, che definisce una sorta di decorazione visionaria della realtà. Ecco che cosa ci aveva detto qualche tempo fa quando lo abbiamo incontrato. Well, there's a lot of different things that can be called augmented reality and... Ci sono una quantità di cose diverse che possono essere definite realtà aumentata. A me piacciono di più quelle meno convenzionali, ma se le guardi attentamente, la maggior parte sono un fantasma, come piccoli video fantasma o un effetto speciale che viene importato nello spazio reale tridimensionale. In pubblicità, ovviamente, consiste nell'usare una sorta di trucco magico per attirare l'attenzione. E ciò è carino, ma solo finché la gente non si annoia. Devo comunque dire che le mie applicazioni preferite sono nei laboratori. Mi piacciono quelle che ancora non funzionano. Quelle che funzionano bene, francamente, mi annoiano. The ones that work pretty well, frankly, bore me. Patrizia, sulla realtà aumentata alcuni settori come l'editoria o i beni culturali, ad esempio, stanno puntando molto. Sì, il mondo dell'editoria è una scena interessante da guardare perché esprime nuovi modelli di publishing coerenti con i nuovi scenari produttivi e culturali contemporanei. Abbiamo parlato, per esempio, alla sua uscita un anno fa di un esempio seminale in questo senso, REF di Fake Press e Derive a Prodi, un progetto multiautoriale cross-mediale anche in versione cartacea con contenuti digitali in continua evoluzione, appunto con l'utilizzo della realtà aumentata, che sono intessuti nei testi non come tali ma dentro i codici e i segni che li innescano. Altro esempio, Clutter, una delle riviste di riferimento del mondo dei designer toys, ha lanciato con un'applicazione specifica sviluppata da Goldrun una caccia al tesoro aumentata, è durata 6 settimane, per vincere 250 toys customizzati, quindi in edizione limitata da 30 artisti, toys che erano sparpagliati nelle varie città in cui si è svolto il gioco, da catturare con lo smartphone o con il tablet, come fosse un retino e si cacciassero delle vere farfalle, che sono stati poi recapitati fisicamente a casa dei vincitori. I musei e le istituzioni culturali internazionali già da molti anni stanno utilizzando la tecnologia della realtà aumentata per valorizzare mostre e favorire la divulgazione, la promozione e la fruizione artistica. Secondo l'Horizon Report 2011, la realtà aumentata, insieme al libro elettronico e ai dispositivi mobili, diventerà uno standard importante tra le tecnologie emergenti anche per l'insegnamento, dall'e-learning, l'apprendimento a distanza, al suo uso anche come strumento in aula nelle scuole, ma anche per la formazione professionale degli adulti nelle organizzazioni, così come per la ricerca scientifica. E application anche in ambito salute, benessere e sanità sono degne di nota. Attraverso la realtà aumentata si possono simulare gli stati dei pazienti affetti da malattie degenerative. Per esempio, Vision Sim, sviluppata da Los Angeles Based Brain Institute, consente di vedere il mondo con gli occhi dei milioni di pazienti con retinopatie, glaucomi, cataratte, eccetera. L'obiettivo è sensibilizzazione, ma anche simulazione di disabilità o di stadi evolutivi di malattie gravi come il cancro. L'ha fatto la società di marketing Sapien Nitro, che ha provato a potenziare, in questo caso, l'effetto poco dissuasivo dei moniti scritti sui pacchetti di sigarette, tipo il fumo uccide, danneggia la tua salute, eccetera. con la visualizzazione dei danni del fumo. Dal sito si scarica una tag, la si inquadra, si inseriscono, se si è fumatore, il numero di anni di sigarette medie giornaliere e si vede lo stato dell'arte dei propri polmoni in un'animazione 3D di fronte a noi sullo schermo. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in Ungheria su realtà aumentata, consumi e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a voi. La recente campagna di Mixed Reality del canale televisivo del National Geographic rappresenta un esempio dell'efficacia e del coinvolgimento che un'intelligente applicazione della realtà aumentata può generare intorno alla memorabilità di un brand. La campagna, ideata e realizzata dall'agenzia londinese Upshaker, ha fatto il giro degli shopping mall del paese. All'interno dei centri commerciali sono stati posizionati un enorme schermo digitale e una telecamera apposita che inquadrava un marker disposto sul pavimento. Le persone che si posizionavano sul marker, attraverso leggeri movimenti delle braccia e delle mani, riprese quindi dalla telecamera, si vedevano interagire sullo schermo con le ambientazioni in 3D tipiche del canale. In pratica si ritrovavano catapultate in un documentario aumentato, circondate nel vero senso della parola dal mondo National Geographic, e in particolare in 5 diversi scenari, dalla preistoria con i dinosauri, ai delfini e i ghepardi, fino alla passeggiata con gli astronauti sulla Luna. La curiosità e l'impatto sono stati altissimi. I bambini, manco a dirlo, erano in visibilio, ma a giudicare dalla quantità di foto e video condivise sui principali social network, gli adulti non sono stati da meno. Se volete farvene un'idea, digitate su Vimeo, National Geographic Channel e Augmented Reality. Grazie Alessia. Patrizia, l'impressione che abbiamo avuto da tutti gli esempi che abbiamo fatto è quella di trovarsi di fronte a una tecnologia che diventerà parte integrante delle nostre vite. Possiamo già immaginare quali oggetti di uso quotidiano nel prossimo futuro adotteranno la realtà aumentata? Innanzitutto la stima sul giro d'affari stimato entro il 2014 legato alla realtà aumentata, che è di 350 milioni di dollari. Molte compagnie e aziende ci stanno investendo e, tornando alla tua domanda, i futuri oggetti potrebbero essere e saranno caschi eye track, occhiali per i video, ma anche cellulari. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.